24 mattino di Alessandro Milan. Eccoci qua, cari ascoltatori, alle 7:24 minuti. Buongiorno, in diretta fino alle 9 anche oggi con 24 mattino. Di cosa parliamo nel nostro sondaggio? Parliamo delle prove Invalsi. Cosa sono le prove che 2 milioni di studenti da oggi faranno per 3 giorni per valutare appunto gli studenti, per verificare a che punto è il loro grado di apprendimento? Prove che fanno molto discutere. C'è chi invita al boicottaggio vero e proprio, insegnanti, sindacati. Ne parleremo alle 8:30. Secondo voi è giusto fare prove per valutare l'apprendimento degli alunni? Votate su radio24.it ed ora da cosa iniziamo i giornali in edicola. In primo piano. Martedì 10 maggio, il Sole 24 Ore sceglie l'apertura sulla Grecia. Shock per il debito greco, Standard & Poor's declassa i titoli di altri 2 gradini. La situazione finanziaria in Grecia è davvero sull'orlo del tracollo, pare. E poi la vicenda Premier, giudici e ieri anche Napolitano, magistrati e sugli altri giornali. Commissione d'inchiesta sui PM, così apre il Corriere della Sera. Napolitano, onore ai magistrati per Repubblica. Uguale il titolo sulla Stampa, Napolitano, onorare i giudici. Per Libero, Napolitano piange, meglio tardi che mai. Anche per il Messaggero, Napolitano, onorare i giudici. Il giornale invece mette le foto di alcune vittime di ingiustizia, il più celebre Enzo Tortora, ma non solo. Per quei giudici, ma non solo, le morti di Stato. Il Fatto Quotidiano mette l'Italia migliore, gli uomini in divisa e i volontari di Lampedusa che si sono gettati in mare per salvare 500 profughi, e l'Italia peggiore, Silvio Berlusconi ripete che i PM di Milano sono terroristi e un cancro da estirpare. Allora, una sola segnalazione prima della pubblicità, la trovo dal Corriere della Sera, pagina 11, a firma Sergio Rizzo. Vi metterà di buonissimo umore, lo so, in questo martedì 10 maggio, l'idea di un Parlamento Channel. Camera e Senato, ecco i nuovi sprechi. Che di questi tempi l'immagine del Parlamento italiano sia poco appannata non è una novità, inizia così Sergio Rizzo. E allora cosa c'è di meglio per risollevare la reputazione della nostra politica? Un bel canale televisivo? Anzi, magari 2 canali. È questo il senso dell'articolo di una trattativa per la quale ci sono già delle strutture messe in moto sia la Camera sia il Senato per avere con la nuova piattaforma tecnologica digitale un Parlamento Channel, o meglio 2 Parlamento Channel, uno per la Camera e uno per il Senato, per evitare anche le gelosie, le ripicche. D'altronde, chiede Sergio Rizzo, con un canale solo a chi toccherebbe il direttore e i dirigenti, in che modo verrebbero scelti, e il palinsesto chi lo farebbe? Meglio fare allora 2 canali. L'ipotesi di 2 canali, Camera Channel e Senato Channel. Già fa sapere Sergio Rizzo che l'affitto dalla RAI della sola frequenza satellitare costa 395.000 euro all'anno alla Camera, 384.000 euro al Senato, poi ci sono 30.000 euro per la web TV, le spese per i dipendenti, l'elettricità, le attrezzature. Già fa sapere Sergio Rizzo che gli uffici di comunicazione di Camera e Senato sono strutture imponenti, alla Camera ci sono circa 35 persone negli uffici stampa, al Senato sono circa 30. Ma ecco, insomma, l'idea di un Parlamento Channel, Camera e Senato, ecco i nuovi sprechi. Secondo Sergio Rizzo esistono già programmi per la diretta delle sedute via satellite sul web e ora si pensa anche a strutture con redazioni e programmi. Ci fermiamo per la pubblicità e poi ripartiamo con le altre notizie. In primo piano. 7:37 minuti, eccoci qui, una rapida occhiata allora a quello che rimane di tempo per la rassegna stampa. Intanto la questione sempre giudici in primo piano, perché Berlusconi ieri era al processo a Milano, processo Mills, e le frasi sono le solite. L'avevo detto, questa settimana ci sarà anche un alzare l'asticella, insomma, delle dichiarazioni. Commissione d'inchiesta sui PM, questo ha rilanciato come titolo a pagina 18 il Sole 24 Ore. Berlusconi attacca le toghe in tribunale. Il clima è quello che fa dire al sottosegretario Santanchè: la Boccassini è una metastasi, le parole anche i PM sono delinquenti, così titola Repubblica. L'ex procuratore di Milano Francesco Saverio Borrelli dice trivialità dal Premier, ma appunto la risposta della Santanchè è metastasi, così titola pagina 3 il Corriere della Sera. E c'è anche questa frase sibillina che il Sole 24 Ore mette nel titolo, nel sottotitolo per la verità, della giornata giudiziaria del Premier, che è questa: andrò anche al processo Ruby? Se ci sarà il processo. Tanto che subito si sono scatenati retroscena a dire cosa vuol dire. Repubblica lo mette a pagina 9, Mills, mai visto in vita mia, e il processo Ruby si farà? Ha fatto questa domanda Berlusconi ai giornalisti. Tanto che nel retroscena sotto di Francesco Belli, Anna Milella già si racconta che per questa frase, insomma, pare che in Parlamento ci si stia già attrezzando. Questa settimana è una settimana prima delle amministrative praticamente di non lavoro del Parlamento, per studiare anche una qualche norma che possa bloccare il processo Ruby, così racconta Repubblica. È singolare la scelta del giornale, sicuramente da sottolineare, perché il giornale cosa fa? Ieri, nel giorno in cui Napolitano ha commemorato le vittime del terrorismo, in particolare i magistrati uccisi dal terrorismo, mette il giornale a pagina 2 le foto dei magistrati uccisi dal terrorismo, ma a fianco a pagina 3 che cosa ci sono? Le foto invece delle vite sfasciate dai PM, così titola il giornale. Il caso Enzo Tortora è il più importante, ma anche Gabriele Cagliari, che si suicidò, presidente dell'ENI, così come Sergio Moroni, Calogero Mannino, Daniele Barillà, che ha fatto diversi anni in carcere scambiato per un trafficante di droga, poi rilasciato con tante scuse dopo diversi anni, dopo 7 anni, 5 mesi e 25 giorni in carcere da innocente. Ne fu fatta anche una fiction televisiva. Insomma, il giornale mette sì i magistrati da commemorare, ma anche le vittime della mala giustizia a pagina 3 a fianco. Clima e dichiarazioni concilianti abbiamo sentito, i toni sono quelli, siamo in campagna elettorale, che poi non si capisce perché in campagna elettorale invece dei temi politici in questione si debbano alzare i toni. Questo è un po' un mistero tutto italico. Ci ha pensato Bossi, che ieri sui magistrati dice: beh, ce ne sarà qualcuno di stronzo, ma non è che si possa dire che lo sono tutti. Ciò che è certo, invece, passando a Fini, Bossi ha detto così: ecco, Fini è uno stronzo. E poi sulla domanda di qualche giornalista sull'asse Napolitano-Lega, tutte stronzate. Queste sono le tre dichiarazioni di Bossi. L'Unità ci titola anche: Bossi, la Lega in mano al paese, a pagina 7, Fini è uno stronzo. Questo a pagina 7. A proposito di Fini, voglio segnalare che Libero fa un attacco molto, molto duro al presidente della Camera su un fatto giudiziario, vale a dire il titolo, e sono ben due pagine, pagina 6 e 7, Flirt in macchina, i legami pericolosi tra il Finiano e il boss. È la storia di Rosario Giammanco, uomo del terzo polo di Gianfranco Fini a Bagheria, che fu intercettato anni fa mentre ringraziava Nicolò Eucaliptos, uno considerato molto vicino a Bernardo Provenzano. Questa è la storia raccontata da Brunella Bollioli su Libero, a pagina 6 e 7. L'intercettazione del 2003 di Rosario Giammanco è questa, con Nicolò Eucaliptos. Giammanco ringrazia Eucaliptos per l'elezione in provincia. Sono Rosario, ciao! E Eucaliptus dice: oh Rosario, auguri, grazie, abbiamo sbalordito. E poi questo Eucaliptus dice: ora ti devi comportare come ti sei sempre comportato, eh? Ma lo so, Nicola, sempre comportato, non alzare mai i piedi per terra. Uno deve sapere che ha sempre i piedi per terra, che poi alla fine queste cose pagano, Rosario. Ecco, questa è l'accusa di Libero. È questa: Rosario Giammanco, uomo vicino a Gianfranco Fini a Bagheria, nel 2003, secondo il quotidiano di Feltri e Belpietro, intratteneva rapporti e intercettazioni con un boss della mafia. Questo per quel che riguarda la politica. L'economia, come detto, è tutta concentrata sulla finanza internazionale, su quello che è la situazione in Grecia. L'eurozona sotto stress, con il titolo di apertura del Sole 24 Ore, lo shock per il debito greco, perché Standard & Poor's ha tagliato il giudizio sul debito della Grecia di 2 gradini, da BB- a B, buttandolo ancor più giù nella spazzatura. Secondo l'agenzia, è aumentato il rischio che Atene proceda verso la ristrutturazione del debito, anche se il premier greco Papandreou dice: continuiamo a lavorare anche contro chi scommette sul nostro default e vuole la dissoluzione dell'euro. Trovate tutti i dettagli a pagina 3 del Sole 24 Ore. C'è anche un'intervista all'economista Nouriel Roubini, che è diventato famoso anni fa perché fu uno di coloro che previde il disastro finanziario iniziato con Lehman Brothers. Lo intervista Mario Platero. Dice Roubini: non è possibile, a mio modo di vedere, che la Grecia esca dall'euro. Di questo non si discute tra i greci e gli altri paesi europei, né penso che vi sia alcuno dei membri dell'eurozona che possa pensarci. Non è un dibattito serio. Invece Roubini dice: penso che la Grecia debba e dovrà ristrutturare il debito l'anno prossimo. Su questa posizione è interessante invece l'intervista che La Stampa fa a pagina 17 a Lorenzo Binismaghi, che è consigliere della Banca Centrale Europea italiano, siede nel board della BCE e non è d'accordo su questa visione della ristrutturazione del debito. Quello che molti analisti si dimenticano di esaminare, dice Binismaghi in questa intervista di Stefano Lepri, e che rappresenta la vera differenza rispetto al passato, è l'impatto di un default o di una ristrutturazione sul paese stesso. Da un lato il sistema bancario sarebbe in ginocchio per le perdite registrate sui titoli di Stato detenuti nel portafoglio, perché perderebbe la possibilità di rifinanziarsi presso la BCE. Infine, dato che non c'è la possibilità, come in Argentina, di finanziare lo Stato con moneta, il governo non avrebbe fondi sufficienti per pagare pensioni, salari, spesa corrente. Insomma, sarebbe un vero e proprio tracollo economico. E allora da chi è nata, chiede Stefano Lepri, questa idea della ristrutturazione del debito? La Grecia ha perso tempo a considerare questa possibilità per qualche mese, consigliata male da alcune banche d'affari, da studi di avvocati in cerca di provvigioni, che si erano dimenticati di evidenziare gli effetti negativi che ho descritto prima. Si è fatta convincere che è possibile una ristrutturazione ordinata prima di accorgersi che è una vera e propria favola. Il processo di riforme interne ha rallentato, in particolare l'amministrazione fiscale. Ci si trova così dopo un anno a dover rimettere mano al programma per avere maggiori garanzie. Insomma, un'intera pagina di intervista molto interessante sul caso greco. Il titolo è: il crack del debito greco è insostenibile per tutti, parla Lorenzo Binismaghi. Che proprio respinge questa idea della ristrutturazione ordinaria definita una favola, perché così non pagherebbero più le pensioni, tra le altre cose. Allora ci fermiamo, le informazioni sul traffico. In primo piano. Per la cronaca, molti giornali, anche pagina 2-3, decidono di aprire su quello che è stato il dramma al Giro d'Italia. Il Giro piange, questo è il titolo della Gazzetta dello Sport, la tragedia alle 16:20, la morte del belga Wouter Weiland, caduto mentre faceva una discesa, e ovviamente a tutta velocità, 20 km dal traguardo. Tra l'altro ci sono anche articoli molto interessanti, ve ne segnalo uno di Aldo Grasso sul Corriere della Sera, pagina 15, perché ovviamente la TV ha raccontato tutto in diretta, la morte in diretta di questo ciclista, quel lenzuolo sulla maglia strappata, e il dramma si consuma in diretta TV. La morte è piombata sul Giro, scrive Aldo Grasso, imponderabile, in attesa, bietta, come sempre. Ne ha scelto una a caso mentre il gruppo stava percorrendo il tratto di discesa del Passo del Bocco a 80 km all'ora. Voleva rovinare una grande festa, quella del 150° anniversario dell'Unità, e ci è riuscita. Ci riesce ogni volta la maledetta. Quando un atleta muore, l'ingiustizia appare ancora più grande. Si fa presto a dire la morte in diretta. Da quando i telecronisti Francesco Pancani e Davide Cassani hanno dato la notizia dell'incidente, e la telecamera intanto era già sulla scena, e per fortuna la discrezione è stata il suo credo, il suo timbro di sensibilità, di compostezza, e si sono accorti della gravità della caduta, sono subito saltati i rituali del racconto, l'incertezza dell'accaduto, l'appello per invocare l'intervento dell'elicottero, l'impotente sensazione che prova in quel momento il telespettatore e che i cronisti possano dire di più e di meglio, che l'elicottero atterri anche in condizioni disagevoli, che il miracolo si compia, che qualcuno venga in soccorso. Poi ricorda che il telespettatore, nel dare la notizia dell'incidente di Casartelli, che è un altro ciclista morto anni fa, Adriano De Zan non riuscì a spiccicare parola, si abbandonò alle lacrime. Quelle lacrime, interrotte da Vittorio Adorni, furono forse l'unico commento sopportabile alla tragedia. E poi più avanti racconta Aldo Grasso: non è lo spettacolo che deve andare avanti, è la vita. E da molti anni, molta parte della nostra vita sociale si svolge con l'apporto attivo della TV. Una volta era facile distinguere tra realtà e rappresentazione, ma da tempo i media costituiscono i nostri nuovi ambienti di socializzazione, luoghi in cui impariamo a comportarci, a divertirci, a soffrire. Si chiama esperienza mediale, significa che i media costituiscono forme di esperienza viva e complessa, non solo cognitiva, ma anche emotiva, pratica, relazionale. Toccherà al giro trovare i modi simbolici per onorare il compagno scomparso. Ovviamente ci sono le polemiche, perché il giro andava fermato, ma subito gli organizzatori hanno detto non volevamo avvertire i corridori in corsa, perché volevamo prima avvertire la moglie, e questo mi sembra un gesto assolutamente giusto, corretto. Le polemiche, insomma, ora la gara si sospenda, no, la gara vada avanti, il fatto è un po' di corollario, di contorno. Quello che rimane è questo dramma, certo, assurdo, ma che raramente capita nel ciclismo, più in altri sport, ma che purtroppo è già capitato. Noi alle 8:20 dell'intervista avremo Laura Boldrini, ospite, è la portavoce dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. E questo è un altro tema che trovate sui giornali, perché c'è questo giallo, la denuncia che viene da un'associazione gestita da un sacerdote eritreo che vive a Roma, l'agenzia Beisha, che aveva lanciato l'allarme qualche giorno fa: 60 profughi alla deriva, lasciati morire dalle navi della NATO. Questa è la denuncia che è stata rilanciata dal quotidiano britannico Guardian e poi da tutti i giornali. Il manifesto ci apre: omissione atlantica, in fuga dalla Libia, lasciati morire nel Mediterraneo dalle navi alleate a proteggere i civili. Erano in 72, ne restano 9. Anche Avvenire ci apre: morti di fame e di sete, odissea di 72 profughi della Libia, 15 giorni alla deriva, la NATO li ha abbandonati. Ovviamente la NATO smentisce questa ricostruzione del Guardian. Secondo il giornale, con un articolo di Fausto Biloslavo, le responsabilità sono soprattutto francesi, perché la portaerei De Gaulle non soccorse questo gruppo di disperati partiti dalla Libia. Certo, la denuncia è molto forte, perché la NATO, che ha fatto questa risoluzione, andare in Libia per proteggere i civili, avesse avuto la possibilità di salvare 72 persone alla deriva in fuga dalla Libia e le avesse fatte morire di stenti nel mare, la denuncia è certo gravissima. Però la trovate su tutti i giornali. Come trovate su tutti i giornali, sempre fatto di cronaca, quello che è il tema del nostro sondaggio. Oggi partono queste prove INVALSI, che è un acronimo. L'INVALSI è l'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo. 2 milioni di studenti quest'anno, per la prima volta anche le classi superiori, e il problema è che ci sono delle polemiche sulle quali vorremmo appunto concentrarci. Un prof su 10 li rifiuta, così titola il Corriere. Scuola, parte male il test INVALSI, valutazione in salsa italiana, questo è il titolo del Fatto. C'è anche un articolo, un fondo molto interessante di Luca Ricolfi, che difende questa idea sulla stampa dei test, perché dice: appena qualcuno timidamente in Italia prova a introdurre elementi di apertura, di meritocrazia, si assiste immediatamente a una levata di scudi. Insomma, c'è sempre la paura della meritocrazia. Ricordate il caso Berlinguer, per esempio, il ministro che fu travolto quando pensò all'idea dei quiz, dei test per valutare. Sta di fatto che alcuni sindacati sono sul piede di guerra, molte insegnanti dicono: non manderemo i ragazzi a scuola, questi test violano la privacy, questi test, secondo alcuni sindacati, sono un modo per giudicare gli insegnanti e poi pagarli più o meno, se sono più o meno bravi in base a questi test. Insomma, cercheremo di capirlo. Sta di fatto che il ministro dell'istruzione Gelmini, in un'intervista al Messaggero, dice: sui test non torno indietro, e dal 2012 si faranno anche in inglese. È il tema del nostro sondaggio. Questi test per valutare il grado di apprendimento dei nostri studenti nella scuola, secondo voi sono giusti oppure no? Ne parleremo alle 8:30. C'è solo spazio, volevo fare due segnalazioni. Una è un tema di cui forse ci occuperemo domani: lo strappo di Bolzano sulla droga. La provincia, con il suo direttore del Dipartimento Antidroga di Bolzano, Peter Kohler, ha studiato un sistema di legalizzazione soft per andare contro il mercato delle mafie che controllano gli stupefacenti. Lo segnale, un'intera pagina sulla stampa, è un tema dibattuto da decenni. A pagina 25 sulla Stampa. Infine, cari abitanti di Roma, domani è l'11 maggio, secondo una profezia, ne abbiamo già parlato, ci sarà un terremoto devastante che raderà al suolo Roma, tutta, intera, tranquilli, tutta, scomparirà il 12 maggio, le frequenze di Radio 24 a Roma saranno nulle, non ci sentirete più, sarà un terremoto devastante, ovviamente è uno scherzo, sto giocando, ma pare che la questione sia talmente seria, a pagina 20 di Repubblica, che ci sono molte assenze negli uffici. Gente che si è messa per questa leggenda metropolitana che è diventata per alcuni una psicosi a Roma domani in ferie, gente che andrà fuori città, si godrà il panorama di questo terremoto devastante che raderà il suolo, il cupolone, il Colosseo, un po' tutto dall'alto, non sarà così, ma anche l'Istituto di Geofisica è dovuto intervenire con un sito a dire guardate che è tutta una bufala, o domani l'11 maggio, non resta che attendere 24 ore, aspettiamo, intanto il giornale radio. 24 mattino. L'intervista. Ben ritrovati da Alessandro Milan alle 8:22 minuti. Voglio salutare Laura Boldrini, che è portavoce dell'Alto Commissariato dell'ONU per i rifugiati. Buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Senta, la denuncia che oggi c'è su tutti i giornali è una denuncia molto grave, severa. Proviene dal Guardian, giornale britannico. Decine di migranti lasciati morire da alcune navi, e si punta il dito contro una nave francese della NATO, che avrebbero intercettato un barcone e non avrebbero fatto nulla. Le pare verosimile? Ma diciamo che io non ho gli estremi per poter dire che la nave poteva essere della NATO o meno, ma mi sembra verosimile che questo sia accaduto, perché peraltro non è la prima volta. Già in passato abbiamo avuto storie incredibili di imbarcazioni alla deriva per circa 2 settimane che hanno incrociato decine di altre imbarcazioni che non hanno prestato soccorso. Dunque mi sembra assolutamente credibile. E la cosa preoccupante è che in un mar Mediterraneo così pieno di mezzi navali, sia commerciali che militari, ecco, questa imbarcazione sia stata lasciata completamente abbandonata al proprio destino, alla deriva, tant'è che ne sono morte 62 persone. Dunque credo che sia giusto fare chiarezza su questa vicenda, ma anche su altre, per evitare che il Mediterraneo diventi una sorta di Far West, no? Dove chi omette il soccorso, che è un reato, non è tenuto poi a risponderne di fronte alla giustizia. A questo proposito, contro questo tipo di rischio, qualcuno ha proposto una sorta, anche credo lei, degli corridoi umanitari per permettere alle persone che hanno il diritto in qualità di profughi o potenziali profughi di in tutta sicurezza arrivare sulle coste italiane. Non è un po' azzardata come proposta? Ma mi sembra una proposta molto pratica, molto pragmatica, che eviterebbe certo alle persone di rischiare la vita. Qui si tratta di gente che fugge da un paese in guerra, questo è bene ricordarlo, perché altrimenti perdiamo di vista il quadro e la complessità della situazione. Al momento dalla Libia sono fuggite 720.000 persone verso i paesi confinanti, in particolare la Tunisia e l'Egitto, che come lei sa, sono paesi con i loro problemi interni, ma hanno lasciato le frontiere aperte e hanno rispettato gli obblighi internazionali. Ora in Italia, dalla Libia, sono arrivate 11.000 persone, quindi si capisce che è un numero estremamente limitato e modesto, che però è destinato ad aumentare, perché da quando mondo è mondo, quando c'è un conflitto, i civili cercano di mettersi in salvo scappando via. Ma questo di fronte alle frontiere terrestri, a un corridoio, è troppo pericoloso. Però le chiedo, di fronte a un corridoio, prendo una barca. Sì, ma di fronte a un corridoio umanitario non c'è il rischio che la gente poi strumentalizzi, insomma, arrivino un po' tutti, insomma, si infilino, se mi permette l'immagine, in questi corridoi umanitari, anche persone che magari non avrebbero diritto poi c'è anche da capire che oggi è difficile che in Libia arrivino persone spontaneamente che non sono già lì, che non sono quindi vittime di questa situazione dei bombardamenti, della violenza. Cioè è difficile oggi pensare che si vada in Libia come un posto, come un altro da cui poi trovare un mezzo per lasciare l'Africa. Mi sembra più verosimile che oggi chi fugge dalla Libia è gente che già è in Libia e che non vuole rimanere sotto la violenza. Dopodiché è sempre chiaramente possibile fare degli screening, è auspicabile anzi che ci siano degli screening, ma il corridoio umanitario ha senso anche nell'ottica però di una condivisione dell'onere, cioè si potrebbe ipoteticamente pensare a far venire in sicurezza queste persone e poi ridistribuirle tra diversi paesi sulla base di un principio di solidarietà. Ma per fare questo ci vuole sicuramente il parere e il volere dei paesi della comunità internazionale. Questo è un problema, secondo lei l'Italia, ecco, non mi pare ci sia stato. Ecco, secondo lei l'Italia è isolata ad affrontare, o comunque poco, c'è poca solidarietà, perché la solidarietà uno la può chiedere, ma se uno non la riceve che fa? Ma guardi, questa è una storia, come dire, complicata. Diciamo che fino a oggi i paesi europei hanno fatto ognuno per sé. Anche in passato ci sono stati paesi, ad esempio la Germania, che si sono trovati a affrontare crisi veramente consistenti. In Germania nel 92 arrivarono 440.000 persone e chiesero asilo. E la Germania dovette far da sola. Ora c'era da augurarsi che con il tempo l'Europa sviluppasse un maggior senso di entità politica e quindi di solidarietà collettiva, ma evidentemente ancora oggi sembra valere questa logica che ognuno fa per sé. Noi ci auguriamo che questa sia l'occasione per riconsiderare questo approccio, perché sarebbe giusto invece avere un approccio più condiviso in un momento in cui c'è bisogno di dare una risposta come dire collettiva. Senta, rispetto alla situazione che si sta sviluppando nei paesi del Nord Africa. La mia ultima domanda è questa: la stima del ministro Maroni, 50.000 potenziali profughi che potrebbero arrivare dalle coste libiche, secondo lei è una stima? Perché ha detto 720.000 persone fuggite dalla Libia, certo non andranno tutte in Italia, però sono già fuggite, sì, guardi, appunto, nessuno appunto di queste, tranne 11.000, ha attraversato il Mediterraneo, questo è già accaduto. Ma queste 50.000 di stima sono anche è le stime vostre? È possibile, ma le faccio anche presente che lo scorso anno in Francia ci sono state 47.000 domande d'asilo, dunque se fossero 50.000 con una crisi di questo genere in Libia, penso che sia una cifra accettabile, assolutamente possibile. Dunque c'è solamente da prepararsi, cosa che si sta facendo, e affrontare questa situazione. L'Italia è un grande paese, ne ha i mezzi e gli strumenti, quindi l'importante ecco, è continuare a mettere in piedi un sistema di accoglienza per cui se dovesse esserci questo flusso e poi ci si troverebbe in grado di affrontarlo senza problemi e senza emergenze addizionali. Io intanto la ringrazio, buona giornata Laura Boldrini, grazie per essere stata con noi. Voglio ricordare il portavoce dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Noi ci fermiamo per la pubblicità del meteo, poi parliamo di questo mistero delle prove, già se si chiamano test quelli dell'Invalsi si arrabbiano, le prove Invalsi che oggi, da oggi per 3 giorni, 2 milioni di studenti di elementari, medie e da quest'anno anche scuole superiori dovranno fare e che sono molto osteggiate da qualcuno, da parte dei sindacati, da alcuni insegnanti, da alcuni genitori che dice non manderemo a scuola oggi i nostri figli perché queste prove, cosa non piace di queste prove? Per alcuni sindacati sono prove fatte senza dare un supporto economico agli insegnanti, oppure violano la privacy, oppure sono un modo surrettizio per cercare poi di valutare gli insegnanti e quindi premiare magari in base a questi risultati di test o di prove quelli più bravi e quelli meno bravi. Insomma, sono delle prove di valutazione degli studenti che si faranno nei prossimi 3 giorni, ma sono osteggiate da qualcuno a dire sono delle prove che non ci piacciono. Che ne pensate? Questo è il tema del nostro sondaggio, le prove Invalsi per valutare il grado di apprendimento degli alunni, dei nostri figli nelle scuole italiane, sono prove che vi convincono oppure no? Cari genitori, se non mandate a casa i figli, chiamateci oggi. Se non mandate a scuola i figli per evitare queste prove, chiamateci, spiegateci il perché, io non l'ho capito. 800 24 00 24, siamo qui tra poco. 24 mattino. Le 8:35 minuti. Allora, da oggi per 3 giorni, oltre 2 milioni di studenti italiani dovranno fare queste prove Invalsi per la valutazione del sistema scolastico. Prove che, secondo qualcuno, non vanno bene, ci sono delle critiche di diverso tipo, violano la privacy, non sono scientificamente provate, sono un modo surrettizio per valutare le scuole migliori e dunque i docenti migliori. Insomma, il mondo della scuola, come scrive oggi Luca Ricolfi in prima pagina sulla Stampa, ha paura dei test o delle prove. Perché? È il tema del nostro sondaggio. Io sono o blanco o negro. Gris non voglio essere in mia vita. bianco o nero? A dire la verità, il tema del nostro sondaggio, la domanda è questa: le prove invalsi per valutare l'apprendimento degli alunni, secondo voi sono giuste? Il 76% di voi per il momento risponde di sì, ma vogliamo discuterne con Mario Rusconi, che saluto, il vicepresidente dell'Associazione Nazionale Presidi. È preside, buongiorno, buongiorno. Preside Rusconi, ben ritrovato. Buongiorno agli ascoltatori. Voglio salutare anche Mimmo Pantaleo della CGL Scuola, buongiorno Pantaleo, ben buongiorno ritrovato anche voi. Lei. Insomma, intanto Rusconi, mi pare di capire, nella scuola dove lei è preside, che mi ricorderà adesso qual è? Liceo scientifico Newton di Roma. Perfetto, voi li fate tranquillamente, perché ci sono scuole che invitano, cioè ci sono anche presidi e insegnanti che fanno il boicottaggio di questi test, o no? O mi sbaglio? Sì, no, ma noi diciamo nel liceo da me diretto vengono fatte, ne abbiamo discusso anche in collegio dei docenti, pur essendoci anche in questa sede una nutrita sezione sindacale, le obiezioni che sono state fatte sono sempre state obiezioni di tipo costruttivo, cioè una certa frettolosità con cui sono state, diciamo così, propinate queste prove, il fatto che gli insegnanti fin dall'inizio dell'anno scolastico non siano stati coinvolti, però l'iniziativa viene presa positivamente in quanto diventerà un metro utile per poter misurare e adattare meglio la programmazione didattica degli studenti. Quindi vengono fatte. No, un perché... giudizio positivo, come direi, nella maggior parte delle scuole italiane, poi sì. C'è diciamo le minoranze che sono contrarie, anche con atteggiamenti piuttosto, come dire, aggressivi. Tutti noi presidi stiamo ricevendo diffide legali da parte di vari sindacatini e insomma le troviamo abbastanza abnormi. Addirittura. Senta, le chiedo, chi è contrario secondo lei? Lo è perché, come scrive oggi Luca Ricolfi sulla Stampa, è che il sistema scuola è abituato agli automatismi di carriera, all'appiattimento delle ricompense, non solo nella scuola, è un po' tutto il sistema Italia, non c'è la voglia di meritocrazia, per cui appena uno dice mettiamo una prova per valutare il grado di apprendimento, subito partono le controffensive a dire oddio che cosa stanno facendo, vogliono mettere i buoni e i cattivi, i bravi e i... Sì, ma io penso anch'io, così come dice Luca Ricolfi, insomma ricordo che quando il ministro Berlinguer, quindi di tutt'altra schieramento politico-partitico, provò nel 2000 di fare una valutazione degli insegnanti, il famigerato concorsone, attenzione, sbagliato tecnicamente, ci tengo a sottolinearlo come sottolineammo allora al ministro, però noi abbiamo buttato a mare l'acqua sporca, come si dice, con il bambino, cioè bisognava salvare assolutamente la valutazione, anzitutto dico, dei presidi, degli insegnanti e delle scuole, con sistemi che ci sono un po' in tutto il mondo, diciamo così, civile, il faro di tutte queste questioni è la Gran Bretagna con l'Ofsted, che dal 1962, quando ancora non si chiamava Ofsted, fornisce appunto dati agli insegnanti, perché se io non so come vanno i ragazzini di seconda media in matematica, qual è il livello loro di preparazione, non posso fare una programmazione. Sì, ricordiamo adeguata. Che sono prove di matematica e italiano e per italiano. Tre giorni. Tra l'altro vorrei da Mimmo Pantaleo, allora le critiche, oggi il ministro Gelmini fa un'intervista al Messaggero e dice garantisce ancora, se ci fosse bisogno, che tutta tutela della privacy, cioè i dati non verranno poi divulgati, non è un metodo per poi, non so, dire ecco gli insegnanti sono bravi in quella scuola quindi meritano di più e dunque per valutare poi chi è più bravo, chi è meno bravo. Insomma, che cosa, se c'è qualcosa che non tranquillizza in queste prove, Pantaleo? Il clima che è stato creato intorno a queste prove. Perché ormai sono mesi che la ministra Gelmini continua a sostenere delle tesi a nostro avviso sbagliate. Cioè il punto fondamentale è capire a cosa serve un sistema di valutazione nel nostro paese. Io non penso che la finalità del sistema di valutazione del nostro paese sia quello di privilegiare alcuni docenti e penalizzarli altri, peraltro in una situazione in cui i contratti sono bloccati, gli scatti di anzianità sono bloccati, adesso c'è il decreto sullo sviluppo che introduce ulteriori problemi che andranno visti attentamente. Noi invece abbiamo sempre ritenuto che la costruzione di un sistema di valutazione passa attraverso parametri, informazioni che consentono di valutare attentamente non solo la qualità finale degli apprendimenti, ma anche il contesto in cui le scuole operano, che sono molto differenti nel nostro paese, e soprattutto avendo un obiettivo, migliorare gli standard qualitativi complessivi del nostro sistema di istruzione, non privilegiare alcuni docenti o penalizzarne altri, contrapponendo docente a docente. È stato questo clima che in qualche maniera non ha favorito una discussione serena sui testi invalsi, che noi non ostacoliamo, non riteniamo essere sostanzialmente elementi di boicottaggio come stanno facendo altre organizzazioni sindacali. Noi abbiamo sempre sostenuto che tocca ai colleghi docenti sì. decidere, non c'è un obbligo per i docenti, perché voglio ricordare anche qui che quanto riguarda i docenti, essendo una prestazione aggiuntiva, deve essere retribuita, e qui risorse non ce ne sono, perché tra le altre cose. Ho capito, però questa è una rivendicazione sindacale che magari giustamente voi portate avanti, diciamo, nel vostro tavolo sindacale, se ce ne sono. Però qui veniamo al tema, alla questione, cioè il perché no. Tra l'altro ci ha raggiunto, voglio salutarlo, Piero Bernocchi dei Cobas. Buongiorno Bernocchi. Un saluto a voi. Buongiorno. Voi siete tra i più duri contro questi test, queste prove invalsi. Perché? Io non so perché. Io glielo ripeto, quello che ha scritto Luca Ricolfi, che io sposo, in Italia, soprattutto nella scuola, ma non solo nella scuola, c'è questa idea di un appiattimento generale per cui le promozioni devono essere sempre fatte mai per meritocrazia, ma per anzianità, eccetera, per anni, per questioni acquisite con altre logiche che non sono quelle del merito. Appena qualcuno cerca di mettere un po' di prove per dire vediamo a che livello siamo, subito, no? Alcuni sindacati, Cobas in questo caso, si sono trincerati dietro a dire no, scandalo, perché... Che scandalo c'è, mi dica Bernocchi? A noi piacerebbe molto che il merito venisse premiato e soprattutto che i lavoratori venissero pagati per quello che meritano. Il problema è che questi quiz, perché di questo si tratta, non sono di alcun aiuto per la didattica, non dicono nulla della preparazione e della qualità, sono dei quiz banali per di più, alcuni grotteschi, alcuni addirittura truffaldini, organizzati in modo che le risposte siano necessariamente disperse, preparati da gente che nulla sa di scuola, nulla sa di didattica. Il presidente fino a ieri, adesso si è dimesso perché la baracca sta andando a fondo, viene dalla Confindustria, è un economista, il grosso di quelli che ci lavorano. Io non ho qua, io non ho qua nessuno dell'invalsi che mi chiede. Ieri l'abbiamo sentito, ha detto già definirli quiz è un errore, sono delle prove. Sono quiz. Domanda e risposta come quelli della scuola guida. Qual è l'obiettivo però? Non è sicuramente premiare il merito, a questo governo come ai governi precedenti non interessa minimamente la qualità della scuola, hanno ridotto i finanziamenti e gli investimenti. Dica l'obiettivo secondo lei. Sì, l'obiettivo è come è quello che è successo in altri paesi, in particolare negli Stati Uniti, mettere in competizione i docenti e gli studenti compilando delle graduatorie che sono assolutamente fasulle e non dicono niente sul vero merito, ma soprattutto immiseriscono l'insegnamento introducendo quello che negli Stati Uniti si chiama il teaching to test, cioè il fatto che 3 mesi prima dei test negli Stati Uniti bloccano praticamente la didattica nelle scuole che sono sottoposte a test, eliminano tutte le materie che non siano inglese e matematica, perché i test si fanno soltanto su queste 2 materie, e si preparano soltanto alle rispostine a una serie di test banalissimi. L'accusa è chiarissima, dopo il traffico le risponderà Mario Rusconi, preside appunto del liceo Newton di Roma. L'accusa è chiara, lei l'ha detto chiaramente, questi test servono a dire qua si insegna bene, qua si insegna male, quindi quei professori sono bravi, quei professori sono cattivi, e poi non ho capito il passo successivo che facciamo, ai professori cattivi li mandiamo al confino, no, li diamo meno, diamo più soldi a quelli più bravi. Tra poco dopo il traffico. Yo soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero. Allora vorrei sentire 2 ascoltatori, Giuliano da Napoli, buongiorno. Parliamo delle prove per valutare gli studenti. Giuliano, buongiorno. Volevo dire che queste prove invalsi hanno un costo per le famiglie italiane. Ogni genitore deve acquistare i libri per far fare le prove invalse ai propri figli. Costano 10 euro, questo lo sanno i nostri ospiti in linea. E poi queste prove invalsi, non so se qualcuno di loro che parla le ha lette le prove, io che ho guardato quelle di mio figlio, ci sono nozioni di cui loro sono completamente all'oscuro, il doppio, la somma, i triangoli, i quadrati, ma in che modo sono stati fatti? Sono stati fatti con i piedi? Sono parole di valutazioni internazionali. In ogni caso, suo figlio dove va? Che classe? In seconda elementare. Seconda elementare. Ma voglio dire, Giuliano, che cosa c'è di timore se suo figlio, che peraltro è tutto fatto in maniera con dati aggregati, cioè senza violare la privacy, non è che diranno il figlio di Giuliano da Napoli no, ha preso quattro, che ne so, a queste prove in balsi. No, serve a valutare appunto se il grado di apprendimento è buono o no e quindi se è da migliorare, se non... No? Ben vengano questo tipo cioè, non di è un compito in classe, ecco, non è un compito. No, ma ben vengano questo tipo di valutazioni se fossero fatte con criterio. Allora, verificate bene quali sono i piani di studio di tutte le seconde elementari e poi fate un libro che fate pagare ai genitori, fatelo in base ai programmi che fanno omogeneamente in tutta Italia. Va bene. Non è che lei ne critica il criterio non uniforme. Voglio sentire, grazie Giuliano, voglio sentire a Roma Jonathan, buongiorno. Buongiorno, salve. Dica. Io sono dell'idea che una valutazione dell'operato da parte degli insegnanti sia assolutamente opportuna. Io lavoro nel mondo del privato e quotidianamente sono sottoposto direttamente o indirettamente comunque a valutazioni. Non comprendo come in un settore così importante che è quello comunque della formazione e della crescita dei bambini non ci sia un sistema di valutazione. Tutto qua. Quindi la valutazione c'è. Allora Mario, grazie Jonathan. Mario Rosconi vuole rispondere, insomma, all'accusa di Bernocchi è molto chiara. Si vogliono tramite queste prove, anzi questi quiz, come definisce lui, magari ci dica anche qualcosa di queste prove, si vogliono stabilire chi sono quelli bravi e quelli cattivi degli insegnanti per poi procedere. Io non mi sono mai esercitato professionalmente nello sport della dietrologia, insomma, poi ognuno può, diciamo, pensare che uno strumento può servire per una cosa così, un tagliacarte può essere tagliacarte, può servire anche a pugnalare una persona, insomma, quindi su questo gioco, diciamo, non ci sto. Leggo semplicemente brevissimamente due parole. Sotto questo profilo le prove invalsi vanno accolte come un'occasione preziosa per rivedere l'organizzazione dell'intero triennio medio. Ecco, questo è scritto da uno grande studioso che si chiama Maurizio Tritico, che è un uomo certamente non tenero con il governo attuale, cioè in poche parole, al di là di quelle che possono essere più o meno, ripeto, dietrologie, impressioni e così via, le prove servono a stabilire il livello medio di preparazione dei nostri studenti, perché io lo vivo, perché io a scuola ci sto tutti i giorni e faccio il preside da ben 27 anni, dico, io le vivo le lamentele dei genitori ma anche degli insegnanti, preside, come mai questo compito ha avuto 5 quando quell'altra ha avuto 7, cioè noi non abbiamo un metro di riferimento, come dire, quando una volta un mio collega andò a parlare con un insegnante di lettere e chiese come mai sua figlia, che andava bene alle scuole medie, in ginnasio era passata dall'8 delle medie al 5 del ginnasio, l'insegnante, facendo un autogol clamoroso, disse: professore, il 5 che metto io corrisponde al 7 dei miei colleghi. Cioè, come dire che il Colosseo può essere alto 3 metri, 33 metri o 333 metri a secondo del momento. Noi abbiamo bisogno di punti di riferimento, sì, che poi possono essere adoperati da qualcuno per cattivo fine, beh, non lo posso presumere. È dietrologia. Ma questo livello medio di preparazione degli studenti che viene valutato da queste prove, a che cosa servirebbe? Serve a ricalibrare l'intera programmazione. Quando il genitore della scuola elementare stava dicendo prima: ma le prove non corrispondono alle performance, a quello che fa mio figlio a scuola, beh, probabilmente se queste prove vengono fatte, partiamo dal presupposto che siano fatte bene e che tengano conto di standard, cioè di livelli europei, va bene? Come si fa una statistica, insomma. Allora, nel momento in cui veniamo ad apprendere che i ragazzini di prima media non sono in grado di fare delle statistiche che sono importanti, bisognerà riprogrammare sia la formazione dei docenti. Ecco, per esempio, non ho sentito da nessuno che dica che in Italia, per esempio, è stata abolita dal 96-97 l'obbligo della formazione in itinere dei docenti, e questo è gravissimo, perché un docente potrebbe essere rimasto a 20 anni fa. Allora, ci servono a stabilire i nostri studenti sono adeguati al livello europeo per capire, per avere delle loro competenze di matematica, di lingua 1, eccetera. Questo è fondamentale. Questo è il punto. Sulle accuse di dietrologia risponde Bernocchi. Prima però vorrei Sara da Bologna. Buongiorno. Sara. Buongiorno. Dica. Allora, io ho avuto un percorso formativo che è arrivato fino all'università. L'argomento è molto vasto, cercherò di essere sintetica. Soprattutto fino alle scuole superiori, quello che rende bravo un insegnante non è soltanto la preparazione tecnica, ma anche la capacità comunicativa. Perché ci sono insegnanti bravissimi, sì, bravissimi, certo, nel senso, certo, molto preparati, ma che in ma realtà non sanno non comunicare. A comunicare. È chiaro. Troppa preparazione, e un test fatto sugli studenti non verifica questa roba qua. Quindi lei il dubbio è questo? Io sostengo già dai tempi delle superiori che gli insegnanti dovrebbero essere in qualche modo valutati, ma ho sempre anche sostenuto che chi doveva fare la valutazione erano gli studenti. Ah, la valutazione degli studenti, grazie Sara. Insomma, Bernocchi, qua abbiamo un minuto per chiudere. Le accuse di dietrologia, cioè perché voi siete così convinti che questi dati poi verranno utilizzati per dire quell'insegnante è bravo, quello meno bravo, e poi per farne cosa? Diamo più soldi a uno e meno più soldi all'altro? Perché è scritto nel famoso decreto Brunetta sul pubblico impiego che la qualità verrà misurata in particolare nella scuola attraverso INVALSI. Ma sì, ma la qualità dell'apprendimento, la ecco, qualità... Ripeto, e appunto, poi, ma il problema ma è questo, lo diceva adesso l'ultimo intervento, sì. Questi test non misurano minimamente né la qualità dell'insegnamento serio, pensate che in dell'apprendimento forse in matematica sono arrivati al primo posto delle graduatorie OCS eccetera, c'è una protesta colossale degli insegnanti universitari che dicono che da quando ci sono questi test i ragazzi si preparano soltanto al calcolo, hanno abbandonato completamente l'algebra, la geometria, le dimostrazioni perché non servono a niente, e come diceva il genitore ti obbligano a comprare dei libretti perché devi riconvertire tutto l'insegnamento alla banalità di rispondere a quei test. Se si volessero avere davvero insegnanti qualificati, il metodo è semplicissimo, l'abbiamo detto mille volte. Intanto un'università che prepari non solo nella materia ma insegnare, perché come diceva l'intervento precedente è e fondamentale poi? Per un insegnante saper comunicare, saper affascinare, saper tenere la disciplina, e tutto questo non te lo insegna assolutamente nessuno. Poi l'aggiornamento, dice Rusconi, l'hanno eliminato, ma l'hanno eliminato perché non l'hanno mai fatto. L'aggiornamento significa come all'università hanno sabbatico, distacco dall'insegnamento ogni 6-7 anni e con obbligo di formazione continua. L'insegnamento. Queste prove. Ma non lo vogliono fare perché non vogliono va spendere. Bene. I governi degli ultimi 15 anni hanno tagliato tutti massicciamente la spesa dell'istruzione. Mi devo fermare però Bernocchi, mi devo fermare, grazie, perché sennò sforiamo. E allora grazie a lei dei COBAS e grazie a Mario Rusconi, vicepresidente dell'Associazione Nazionale Presidi, e Mimmo Pantaleo da CGIL per essere stati con noi, con Alessandro Longoni e Elisabetta Fusconi in redazione, il nostro alpino Peter Bescapè in regia. Andate anche su Facebook, la nostra pagina 24 Mattino, ci trovate con le discussioni, le vostre idee, le vostre opinioni, e noi ci troviamo domattina alle 7:20.